Sì, meno conosciuto perché l'abbiamo lanciato adesso. È un sistema che nasce con la stessa finalità delle altre Audi, quindi per rilevare la audience e cosa fanno in generale i navigatori sulla rete. Quindi si pone come finalità anzitutto capire chi sono i navigatori. Sappiamo che in Italia naviga circa il 50% della popolazione. In questo modo andiamo a capire quali sono i loro profili sociodemografici, chi sono, come navigano, o se ad esempio utilizzano degli altri device elettronici che non siano il PC o la rete. Noi sappiamo che la rete ormai è uno strumento pervasivo, si può usare attraverso i telefonini, si può usare attraverso gli IPTV o altri aggeggi. È molto importante sapere quali sono i trend nei consumi mediatici digitali della gente, quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è sapere cosa fanno. La rete offre a livello di profondità dei dati, delle informazioni, essendo un mezzo interattivo, decisamente più importanti e profonde degli altri mezzi. Sulla rete di una persona si sa che cosa vede, ma si sa anche che cosa clicca, cosa fa, fino a che cosa compra. La rete è al contempo un mezzo di comunicazione ormai di massa, ma è anche uno straordinario mezzo di canale, è un mezzo di commercio elettronico. È un mezzo con cui si può anche fare semplicemente della socialità, quindi in cui gli individui si aggregano, fanno comunità. Ci sono i cosiddetti social network che sono uno dei driver principali della rete. Ecco, l'insieme di questi fenomeni va descritto e viene descritto in maniera ancora più profonda che per gli altri mezzi. E quindi usiamo le tecniche per conoscerli, per conoscere questi dati, tecniche più sofisticate, più tecnologiche, per conoscere appunto le abitudini della gente, fotografarle, e anche noi abbiamo un grande panel per capire effettivamente cosa le persone fanno e farne dei report, dei dati importanti che poi vanno ad alimentare quelle che sono le esigenze del mercato degli investimenti pubblicitari.